Euroreportage. L'Europa scende in campo contro le scommesse illegali, di Dario Ricci. Noi abbiamo in effetti individuato due persone che hanno ripercorso quel ruolo che voi avete spesso descritto, e cioè persone che sfruttando conoscenze e introduzioni in ambiente, soprattutto dirigenze, soprattutto della Serie A, avevano possibilità di manipolare risultati vendendo pacchetti di partite per cifre molto elevate, dell'ordine delle centinaia di migliaia di euro. Eccola la voce del procuratore di Cremona Roberto Di Martino, il motore primo dell'inchiesta Last Bet, l'inchiesta sul calcio scommesse in Italia, ma non solo, che proprio in questi giorni ha avuto nuovi e inaspettati sviluppi. Voce che è risuonata in questi giorni anche a Bruxelles. Parlamento e Commissione Europea da tempo infatti sono scese in campo contro il match fixing, le scommesse illegali legate non solo al football, ma all'intero sport continentale. Perché è proprio anche attraverso lo sport che riusciamo a sentirci cittadini di un'unica patria comune, ha precisato il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. È facile per chi vuole frodare, ingannare, farsi largo in un'Europa divisa, eterogenea, senza leggi e regolamenti comuni. Perciò noi abbiamo bisogno di più Europa, non, come dicono forze nazionaliste e anti-europee, di meno Europa. È falso. E proprio grazie allo sport riusciamo a sentirci più europei. Ed è quindi importante e logico che siano il Parlamento europeo e la Commissione europea a prendere l'iniziativa per armonizzare regole e norme continentali anche per lo sport e mantenere trasparente e corretta la competizione sportiva. Grazie. 51 match di calcio, 2 di basket, 3 di tennis, 1 di pallavolo. Sono le gare monitorate da Federbet e risultate truccate in Europa solo dall'agosto scorso ad oggi, in modo trasversale quindi in tutti gli Stati membri. Serve cooperazione e intervento congiunto, sottolinea la vicepresidente del Parlamento Roberta Angelilli. Ci deve essere una sinergia a livello europeo tra tutti e 28 gli Stati membri, proprio per una tolleranza zero rispetto a tutti i fenomeni criminali che vanno ad intaccare lo sport. Sport e criminalità organizzata sono una contraddizione in termini, quindi ci deve essere un impegno massimo anche attraverso una cooperazione tra le polizie, tra le forze dell'ordine e di tutti gli Stati membri. Truffe e illegalità che spesso viaggiano sul web. Inevitabile allora un'alleanza, anche bancaria, europea, per monitorare i flussi di denaro movimentati dalla criminalità organizzata. La lotta è a tutto il cybercrime e a tutto quello che spesso è difficile tracciare perché avviene online, perché ci sono mille strade per aggirare la legge. Quindi è necessario fare comunque un tavolo di lavoro permanente, Parlamento, Commissione, Stati membri, per avere la possibilità di incidere a 360 gradi, quindi settore finanziario, quindi cooperazione giudiziaria e di polizia, repressione ma anche informazione. Un progetto pilota sulla prevenzione del match fixing ora c'è ed è stato adottato lo scorso ottobre dal Parlamento europeo nel quadro del budget 2014. E anche i fondi da impegnare ci sono. Il promotore, il deputato italiano di Forza Italia Popolari Europei, Salvatore Iacolino. Avremo 2 milioni di euro da utilizzare. In tutta Europa, soltanto nei primi 4 mesi di quest'anno, 50 partite non solo sono state definite sospette, ma addirittura oggetto di una manipolazione sportiva. Il passo successivo è prevedere la frode sportiva in tutti gli Stati membri. Oggi è prevista soltanto in taluni Stati membri, ma anche in Italia. La sanzione da 1 a 3 anni ci sembra assolutamente inadeguata e bisogna invece determinare momenti di sanzione molto più concrete e molto più incisive. Istituzioni europee, certo, ma anche i privati, gli stessi club calcistici sono chiamati a fare la loro parte, spiega Iacolino. L'obiettivo fondamentale è quello della prevenzione attraverso la cooperazione con tutti quanti, federazioni, atleti, arbitri, gli stessi scommettitori. Bisogna creare un team, una squadra che abbia come obiettivo quello di combattere le scommesse illegali, ma nel contempo di garantire quella informazione corretta anche nei confronti di quei giovani, di quei ragazzi che hanno come modello di atleta, talvolta atleti che poi loro stessi giocano, scommettono sulle loro stesse partite. In questi casi il meccanismo della sanzione efficace e dissuasiva è assolutamente fondamentale. Noi riteniamo che soltanto attraverso una cooperazione fra pubblico e privato si possano trovare le risorse necessarie per prevenire le minacce legate alle scommesse illegali, che molto spesso si alimentano di flussi di denaro provenienti da sistemi illeciti. Fenomeno quindi diffuso in tutta Europa, quello del match fixing, denuncia Francesco Baranca, amministratore delegato di Federbet. Siamo di fronte a una vera e propria pandemia. Il virus del match fixing si sta espandendo con velocità e con forza in tutti i campionati europei ed extraeuropei. Quello che una volta era limitato alle partite di fine campionato o a campionati particolarmente esotici sta diventando una consuetudine anche in quei paesi dove il virus non era mai riuscito a sfondare. Campionati dell'Est Europa, Latvia, Lituania ed Estonia, la Repubblica Ceca, Cipro, Malta, dove ormai le partite sembrano diventate un esercizio di stile per manipolarle, e poi, cosa abbastanza inusuale, il virus ha colpito anche l'Inghilterra, la correttissima Inghilterra, dove i problemi si sono riscontrati nei campionati minori e dove è notizia di alcuni giorni fa che sono stati arrestati dei giocatori per tentativi di manipolazione. Parole confermate da Leo Grosso, segretario del Sindacato Mondiale dei Calciatori. Assolutamente sono realtà sulle quali intervenire. Noi viviamo in paesi in cui forse il problema non è così grave, ma anche calciatori italiani, giocatori che io conosco personalmente che giocano in quei paesi hanno delle difficoltà enormi. Cioè la criminalità va dove gli viene meglio, eccetera. E poi diventa anche difficile, perché qui non stiamo dicendo organizziamo di perdere o vincere una partita. Qui si scommette su qualunque cosa, a partire dall'over, a partire dal primo calcio d'angolo, eccetera. Quindi è effettivamente una cosa estremamente complessa, e forse solo il monitoraggio dello spostamento delle scommesse durante le partite o poco prima delle partite può aiutare a tracciare. Ma come intervenire? Legislazioni comuni, strumenti giudiziari più specifici, pene più severe, investimenti, tracciabilità di flussi finanziari, la creazione di una super procura europea con specifici obiettivi antifrode. Ancora Iacolino. Gli strumenti sono senz'altro quelli che abbiamo noi previsto nel progetto pilota. C'è una grande cooperazione che sia intanto legata agli attori fondamentali, federazione, atleti, scompetitori, arbitri, ma nel contempo una cooperazione giudiziaria e di polizia basata sulla fiducia degli Stati membri. Si tratta di reati. Per punire questi reati debbono circolare le informazioni. Gli strumenti li mette in campo il Parlamento con riferimento a questo progetto pilota, che avrà una platea la più larga possibile. È un primo passo. È la prima volta da quando è entrato in vigore il Trattato di Lisbona, dal 1 dicembre del 2009, che ha introdotto competenza legislativa in materia di sport, che il Parlamento europeo scende in campo con la volontà reale e concreta di dire la propria. Diciamo che una priorità politica del Parlamento europeo è certamente il contrasto ai sistemi criminali, a cominciare da quelli europei, ma anche quelli che insistono altrove, mi riferisco a quelli asiatici, che rappresentano una minaccia reale e concreta. Ma serve anche formare gli atleti, i giovani calciatori. Leo Grosso. Dobbiamo lavorare essenzialmente sull'educazione e sulla collaborazione con, così come abbiamo in piedi, con l'Interpol, con l'Europol, ma soprattutto noi dobbiamo lavorare sulla testa dei calciatori, non solo dal punto di vista della repressione, ma anche da quello della prevenzione. Quindi gli interventi negli spogliatoi, il monitoraggio, sono tutte cose da fare. Qualcuno proprio in Europa si è già mosso per tempo. Qualche esempio positivo da seguire, insomma, esiste, come sottolinea Francesco Baranca. La Liga spagnola, nella persona del suo presidente Xavier Medrano Tebas, sta facendo un lavoro eccezionale, un lavoro volto a cercare di sconfiggere il fenomeno tramite la prevenzione. Ossia, la Lega spagnola si è affiliata a Federbet e ha chiesto che Federbet controllasse tutte le partite e i flussi di gioco. È tramite il controllo dei flussi di gioco e tramite l'educazione, partendo dai giocatori più giovani, che questo fenomeno può essere sconfitto. La cosa triste è che esiste l'antidoto, ma nessuno lo vuole usare. E anche i club italiani, malgrado quanto testimoniato dalla cronaca più recente, si stanno lentamente incamminando su questa strada, tra partnership con agenzie di controllo e codici etici che regolano il rapporto con dipendenti e tesserati. Primi passi di un percorso ancora lungo, ma da cui dipende il futuro dello sport e del calcio, evidenzia Baranca. Basta un buon occhio umano, un buon software per scoprire quando un evento è manipolato. Gli strumenti ci sono, ma sono ancora limitati e nessuno ne fa un uso decisivo. Noi ci rivolgiamo ai club, italiani, e diciamo: imparate a farvi controllare, fate sì che qualcuno vi controlli, risolverete il problema della responsabilità oggettiva e darete un futuro al calcio che in questo momento non è sicuro. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.